Anchor è un progetto messo in pratica dall'associazione Bianca Guidetti Serra e nasce da un'iniziativa di 2 anni fa, da un workshop internazionale che avevamo co-organizzato a Melendugno in provincia di Lecce con il movimento NOTAP, con il Transnational Institute e con l'Unisaletto. Un workshop dal nome Policing Extractivism, Security Accumulation Pacification. Praticamente sotto la lente c'erano gli attacchi ai territori da parte delle attività estrattive come attività minerarie, costruzione di grandi opere, espansione dell'agroindustria, insomma tutto ciò che espropria le comunità e distrugge la natura a servizio dell'accumulazione e del profitto, e parallelamente le politiche repressive condotte dagli stati per garantire l'attuazione di questi processi. E ci eravamo lasciati alla fine di questo incontro progettando di costruire uno strumento che permettesse la continuazione del dibattito. Ecor è un portale che vuole essere appunto l'attuazione di questo strumento. Praticamente si tratta di un portale che fornisce sia un repertorio, un archivio aggiornato di materiali presenti già in free download, in libera possibilità di scaricare sul web, materiali prodotti da movimenti, da organizzazioni di tutto il mondo, che normalmente sono poco fruibili o poco conosciuti dai compagni italiani, perché vabbè, insomma, c'è anche la difficoltà della lingua. Noi in parte li traduciamo, li recensiamo in modo che siano più facilmente fruibili. Produciamo materiale di analisi nostro, appunto, sui temi dell'aggressione del profitto ai territori e delle politiche securitarie, appunto, che li sostengono, e ovviamente del collegamento fra estrattivismo e varie forme di violenza, dalla guerra appunto alla repressione, all'uso della costruzione di infrastrutture critiche a scopo coloniale o bellico. Ci apriamo alle collaborazioni anche con i movimenti a livello internazionale per rilanciare i loro materiali e per creare uno strumento che possa essere utile anche alla loro conoscenza reciproca e al loro collegamento. La prospettiva internazionale è anche quella che può aiutare a comprendere la portata, no, di certi fenomeni che non sono solo, come dire, su scala territoriale, locale, ma hanno dinamiche anche globali. Sì, assolutamente. Infatti in questo momento daremo spazio a una parte monografica per una 15ina di giorni con pubblicazioni quotidiane su estrattivismo e pandemia, dove focalizziamo il fatto che ci sono dei fenomeni assolutamente trasversali che attraversano tutto il mondo, che riguardano l'intensificazione delle attività estrattive sui territori proprio approfittando del periodo pandemico, parallelamente con delle strette autoritarie e peggioramenti delle normative repressive in maniera abbastanza diffusa in tutto il mondo, e parallelamente ancora con un aumento della violenza contro i militanti, sia come violenza extralegale, fra virgolette, tipo esecuzioni extragiudiziali in Africa, Asia, America Latina, sia come violenza legale, nel senso repressione delle manifestazioni di piazza, inasprimento appunto della normativa repressiva, e contemporaneamente ancora un aumento generalizzato delle controriforme in tema ambientale che passa dall'Australia attraverso tutta l'America Latina, arriva anche nell'Unione Europea. Quindi da una parte analizziamo globalmente questi fenomeni e dall'altra tendiamo di mettere in rapporto i vari movimenti che li vivono e che reagiscono anche a questo tipo di politica. In questo senso stiamo organizzando un webinar per mercoledì prossimo, il 24 febbraio alle ore 17, che si occuperà appunto del tema dell'estrattivismo e della pandemia.